Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: arrivano segnali contrastanti, già in parte ve ne ha parlato il nostro GR, sull'andamento economico complessivo e poi anche su quello italiano. Perché? Perché ieri gelata, doccia fredda, e anche sui mercati, dopo le dichiarazioni della Banca Centrale Europea, che ha detto ci sono altri 280 miliardi di euro di svalutazioni che le banche europee potrebbero dover fare nei prossimi mesi, così come aveva frenato una crisi che molti giudicano alle spalle nella sua parte più virulenta, aveva frenato la Banca Europea dalla ricostruzione degli investimenti e anche la Banca Centrale Europea. Oggi alcuni dati americani vanno in questa direzione, altri invece sembrerebbero segnalare un miglioramento complessivo del quadro economico, che resta pur negativo. Ce ne occuperemo soprattutto nella seconda ora del programma, utilizzando una volta tanto non degli economisti, che vanno benissimo, ma un indicatore che è particolarmente sensibile al, si chiama infatti, è un classico indicatore anticipatore. Mi riferisco al Baltic Index. Che cos'è? In sostanza ne parleremo più avanti, ma fotografa il costo per trasportare via cargo prodotti non finiti, ma né materie prime in senso petrolifero, ma semilavorati, per cui dal ferro alla soia. È un indice importantissimo, perché chiaramente se si vede che il prezzo per trasportare merce lungo il Pacifico, lungo l'Atlantico aumenta, vuol dire che c'è richiesta di materia semilavorata per poi produrre beni finali. Se il prezzo per noleggiare un cargo diminuisce, vuol dire che la richiesta è bassa, ed è un indicatore appunto anticipatore, perché arriva prima del resto delle attività economiche, e vorremmo capire appunto come si muove. Molti di voi ricorderanno a ottobre-novembre queste immagini di decine e decine di cargo fermi davanti ai porti perché nessuno li voleva noleggiare, perché era troppo costoso tenerli in attività. E da lì cercheremo di capire se poi il commercio mondiale stia dando dei segnali di ripresa. Prima di quello parleremo della relazione in Italia dell'antitrust, quindi di Catricalà, di Antonio Catricalà, che in sostanza ha detto: attenzione, non siano i consumatori a pagare i costi di questa crisi. Ha chiesto che venga messa fine a uno stillicidio di leggi contro i consumatori. Ed è scagliata anche contro la modifica della class action per colpa della resistenza di pochi soggetti. Parleremo anche delle borse, che dopo un tentativo di recupero adesso sono tutte negative, tutte quelle principali, ma soprattutto Milano oggi. Perché? Perché se Londra oscilla tra un meno 0,2 e meno 0,1, Parigi meno 0,1, adesso invariata, Francoforte ha recuperato qualcosa, più 0,3%, mentre l'America segna adesso uno 0,2%, Milano perde quasi un punto percentuale sul FTSE MIB. Il motivo? Beh, se infatti A2A va bene, più 3,90, Ansaldo bene, più 3,1, Bulgari più 1,80, Lottomatica più 1,5, The Steam Microelectronics più 1,2, decisamente in flessione è Autogrill, meno 4%, e poi di nuovo tutto un gruppo di bancari: Popolare di Milano meno 3,6, Banco Popolare meno 3,3, Intesa meno 3%, Unicredito meno 2, Unipol meno 2,1, Fondiaria meno 1,90%. In flessione anche Fiat, perde 1,5%, nonostante i buoni dati per quello che riguarda il lingotto usciti oggi a livello di immatricolazioni europee. Ne parleremo in apertura. L'ultima cifra è il 349-238-6666. Per i vostri sms. Avremo anche modo di fare un approfondimento sulla missione imprenditoriale italiana che si sta svolgendo tra Singapore e la Malesia. C'è la nostra inviata al seguito per allacciare e stringere nuovi accordi commerciali di partnership con Singapore e con tutta la Malesia. Ci sono già alcuni annunci importanti. Detto ciò, le notizie in breve. Il il petrolio, come sempre nelle nostre notizie in breve, è in apertura a $72 al barile, quindi stabile intorno ai $70 al barile. E il numero uno dell'Eni, Paolo Scaroni, oggi ha dichiarato che l'Eni potrebbe cedere alcuni giacimenti nel mare del nord nell'intento di mettere ordine al proprio portafoglio, dismettendo una produzione pari a qualche migliaio di barili, che sono obiettivamente poca cosa rispetto ai volumi dell'Eni. I mercati, l'euro si diceva sopra quota 1,39. Questo perché oggi il dato macroeconomico più interessante arriva dalla Germania. Non a caso la borsa tedesca è la migliore, adesso guadagna mezzo punto percentuale, e riguarda l'indice ZEV. È un indice importante in Germania perché serve per fotografare l'andamento anche della fiducia a livello tedesco, e l'indice ZEV ha toccato un nuovo massimo. Praticamente l'indice nel mese di giugno è arrivato ai massimi dal maggio del 2006. Questa mattina invece è pesante la chiusura in Asia, che ha praticamente incamerato i cali di ieri registratisi in Europa, e soprattutto pesanti le materie prime. Penso a Rio Tinto meno 3%, frenato dal calo delle quotazioni del rame. Male anche i titoli automobilistici, Toyota meno 3,40, Nissan ha perso il 6% questa mattina, e poi appunto vari colossi del settore petrolifero: PetroChina meno 4%, Nippon Oil meno 6,5%, Sydney Woodside meno 3,2%. Però adesso arriviamo alle notizie in chiaroscuro, perché da un lato la banca centrale giapponese ha detto che da settembre metterà a punto le vie d'uscita dalle misure di d'emergenza fin qui adottate, tant'è che oggi la banca centrale giapponese ha lasciato i tassi invariati, per carità erano già lo 0,1%. Dall'America due segnali divergenti: l'indice sulle nuove case ha avuto un forte rialzo nel mese di maggio, più 17% con 532.000 costruzioni, nuove abitazioni, mentre sul fronte opposto l'indice che misura l'andamento della produzione industriale americana è calato a maggio leggermente più delle stime, meno 1,1%. Arriviamo così all'inflazione europea e italiana. Allora, ferma a zero l'inflazione nell'area euro, minimo storico assoluto. L'inflazione non esiste, diciamo, quanto area della moneta unica, zero questo vuol dire, e in Italia è calata ai minimi dal 1968, novembre del 68 per la precisione, quando crebbe dallo 0,7%, a maggio ha fatto un più 0,9% rispetto a un anno prima, e tra l'altro mese su mese più 0,2%. Ne parleremo a breve. Comunque i tassi maggiori di crescita si sono registrati bevande alcoliche e tabacchi più 5% e prodotti alimentari più 2,5% come prezzi rispetto a un anno prima, e altri beni e servizi più 2,5%. Negativi invece i prezzi dei trasporti, meno 3,4%. E passiamo adesso al mercato europeo dell'auto. Allora, a maggio in Europa segna un meno 5%, in Italia già lo sapevamo meno 8,6%. La buona notizia intanto che la diminuzione è più contenuta rispetto a quella di aprile, quando il mercato europeo dell'auto segnò un meno 12%. Ma dicevo, la buona notizia riguarda il gruppo Fiat, perché la quota del gruppo Fiat a livello europeo è salita al 9,3% contro l'8,8% di un anno fa. E infatti Fiat in Europa nel mese di maggio ha avuto un segno positivo nelle immatricolazioni, più 2,5%, tant'è che il presidente del gruppo, Luca Cordero di Montezemolo, ha detto che Fiat si sta avvicinando lentamente al 10% della quota europea del mercato, cioè un'auto su 10, quota che il gruppo non aveva mai avuto. E comunque sulla vicenda Chrysler Montezemolo ha aggiunto che è già iniziato un grande lavoro, mentre su Opel ha confermato che non ci sono novità e che non esiste un piano B in Europa. Novità dal mondo dell'auto invece sul fronte General Motors, ma per quello che riguarda l'aspetto, la controllata svedese Saab, perché General Motors ha scelto l'acquirente della Saab, sarà la società svedese di auto di lusso Koenigsegg. Tutta la transazione però è condizionata al prestito da 600 milioni di dollari che dovrebbe essere concesso dalla Banca Europea degli Investimenti e sostenuto dal governo svedese alla General Motors. La Saab torna praticamente in questo modo, tornerà se tutto andrà a buon fine in mani scandinave dopo che la famiglia Wallenberg la vendette tra il 99 e il 2000 proprio a General Motors. La cosa interessante è che la Saab ha 4.000 dipendenti in Svezia e nel 2008 ha venduto un po' meno di 100.000 auto. Chi se la comprerà, cioè la Koenigsegg, è un'azienda che ha meno di 50 dipendenti. L'anno scorso ha prodotto 18 vetture. Immagino che alcuni di voi la conoscono, io personalmente ne ero completamente all'oscuro. Sono vetture che raggiungono i 400 km all'ora e costano circa $1 milione ognuna. Però insomma, piccoli sono piccoli, ma si comprano la Saab. Vabbè, andiamo avanti. Ansaldo STS, ecco perché il titolo va così bene, ha annunciato di essersi aggiudicata un contratto da 150 milioni di euro in Arabia Saudita. Praticamente realizzerà tutta la segnaletica del sistema metropolitano automatico che verrà realizzato nel campus dell'Università Femminile di Riyadh, che sarà il più grande al mondo. E infine dalle Bourget, la Sukhoi, che è la joint venture in realtà tra Finmeccanica e Sukhoi, ha firmato un contratto per vendere 24 Superjet 100, quelli appunto prodotti con la Finmeccanica, per un valore totale di 715 milioni di dollari. Adesso passiamo al primo tema. Da un lato la notizia di cronaca è rappresentata dall'inflazione e quindi vedremo anche come si è mossa l'inflazione a seconda dei beni di consumo, e però dall'altro dalle denunce, comunque dai richiami arrivati dal presidente dell'antitrust Antonio Catricalà. Allora, un po' di pazienza, chi già scrive al 349-238-6666 per le banche. Dicevamo, l'inflazione a maggio cala lo 0,9% ai minimi dal 1968. Interessante vedere nel carrello della spesa come si sono mossi i prezzi dei beni. I prodotti ad alta frequenza di acquisto, visto che proprio ieri abbiamo dedicato la seconda puntata della nostra inchiesta su come cambiano i consumi, dicevo, i prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto, alimentari, bevande, tabacchi, carburanti, beni per la casa, giornali, bene, quelli sono cresciuti solo dello 0,6%. I prodotti a media frequenza di acquisto, per cui abbigliamento, medicine, alberghi, trasporti stradali, ferroviari, hanno avuto una crescita dello 0,9%, invece i beni a bassa frequenza, e quindi beni durevoli, soprattutto elettrodomestici, auto, TV, computer, sono cresciuti un po' di più, quanto a prezzi, rispetto a un anno fa, l'1,3%. E ascolteremo dopo cosa ha dichiarato il presidente della Camera Gianfranco Fini sul scenario macroeconomico. Mi interessa legare questi dati sui prezzi a quanto ha dichiarato invece il presidente dell'antitrust Catricalà proprio relativamente ai consumatori. Ha detto infatti, attenzione, i costi di questa crisi non possono essere scaricati sui consumatori. Nel nostro paese i vincoli di finanza pubblica, giustamente considerati al governo, ci mettono di fronte a una scelta obbligata e virtuosa. Possiamo solo incoraggiare le liberalizzazioni e lo sviluppo di autonome iniziative imprenditoriali, favorire soluzioni forse più lenti ma stabili dei problemi di crescita che in Italia hanno assunto caratteristiche strutturali. Ancor prima che la crisi dispiegasse i propri effetti, L'economia nazionale mostrava i segni di un rallentamento costante. A conferma della scarsa concorrenzialità del sistema, nella fase cruciale di questa congiuntura il tasso di inflazione è diminuito in misura inferiore rispetto ad altri paesi. Occorre vigilare affinché i costi della crisi non siano riversati sui consumatori. Il pericolo è latente in tutti i mercati, ma si manifesta in particolare in quelli caratterizzati da intrecci e posizioni dominanti. Così è questo in generale l'appello del presidente dell'autorità contro la per la concorrenza, ossia l'antitrust, Antonio Catricalà. Più nello specifico, Catricalà ha puntato l'indice su alcuni settori. Da un lato si è scagliato contro le leggi che sostanzialmente vogliono restaurare gli equilibri del passato a detrimento dei consumatori, in sostanza leggi che toglierebbero concorrenza, toglierebbero liberalizzazione. Sentiamo. In Parlamento va scoraggiato lo stillicidio di iniziative volte a restaurare gli equilibri del passato a detrimento dei consumatori. Nella distribuzione farmaceutica l'approvazione di riforme che riportino indietro le lancette e l'orologio ripristinerebbe di fatto il monopolio delle farmacie tradizionali, con la conseguente fuoriuscita dei nuovi operatori. In 3 anni sono stati aperti quasi 3.000 corner e parafarmacie. La loro quota di mercato è vicina al 6% dei farmaci di automedicazione, lo sconto praticato a margini tra il 3 e il 22%. I farmacisti nuovi occupati sono circa 5.000. Nel settore assicurativo si profila l'abrogazione della facoltà di decesso annuale dai contratti di durata, la riduzione delle modalità della mobilità della clientela contribuirà a ingessare un mercato in cui la dinamica competitiva è già molto attenuata. Per la distribuzione del gas, questa autorità più volte si è espressa a favore del mantenimento di un tetto antitrust, indispensabile per favorire una concorrenza effettiva nel settore. Si è altresì sottolineato che dovrebbe trattarsi una misura flessibile che tenga conto delle nuove quantità attese, delle trasformazioni del mercato e degli andamenti della domanda. L'indagine sullo stoccaggio del gas ha evidenziato la necessità di eliminare le barriere amministrative che impediscono lo sviluppo di nuova capacità. Il processo di apertura dei mercati deve essere riavviato. E quindi punta l'indice contro alcune leggi che eliminerebbero i benefici della Bersani. Lo dico a chi sta già scrivendo, su alcuni benefici possiamo discutere, penso ai taxi che potevano anche non essere inseriti, l'abbiamo detto molte volte, ma che le varie lenzuolate di Bersani abbiano prodotto dei benefici per i consumatori è innegabile. Le cifre che citava Catricalà riguardano appunto i costi dei farmaci, dei farmaci da banco, quelli senza prescrizione, un meno 3, meno 22% con 5.000 farmacisti assunti, 3.000 corner, come si chiamano in gergo, angoli di parafarmacia. Ecco, non si capisce perché tornare indietro se non per difendere, lo dico con massimo rispetto, la categoria e l'ordine dei farmacisti. Discorso analogo per le assicurazioni, anche lì il recesso annuale rischia di essere abrogato. Già abbiamo visto con le banche reintrodurre in maniera non proprio trasparente la commissione di massimo scoperto. Spesso ne abbiamo parlato anche noi, ne ha parlato Deborah Rosciani con Salvadanaio, tutte le difficoltà che le banche ancora frappongono per rendere veramente portabile il conto corrente. Ecco, non si sente l'esigenza di difendere, a mio avviso, certe categorie. Giustamente ascoltiamo anche su questo l'ex ministro Bersani. Diciamo che viviamo in un clima non favorevole a riforme liberali, io non me ne stupisco, perché purtroppo questo è un dato di fondo politico, culturale, della storia di questo paese, che le destre non hanno un profilo liberale, tendono ad avere un profilo corporativo e di commistione fra interessi pubblici e interessi privati. Questa è un'antica vocazione alle quali però bisogna reagire. Ecco, io credo che l'opinione pubblica dovrebbe chiedersi come sia possibile, nel pieno di una crisi, che per esempio questa settimana al Senato sia in discussione una proposta di abolizione delle parafarmacie. Quale possa essere la logica? dopo aver visto, come testimonia Catricalà, riduzione dei prezzi, nuova occupazione per dei giovani farmacisti, e non mi pare che le farmacie tradizionali siano andate in rovina. Allora bisogna a questo punto chiedersi come mai nottetempo il Parlamento stia modificando all'indietro tutte le aperture di liberalizzazione, quando invece sarebbe assolutamente bisogno di andare avanti. Si accettano i vostri commenti al 349-238-6666, ma mi sembra che insomma il ragionamento chiaramente politico di Bersani non faccia una grinza. Ricordo, al di là della politica, che su questa è intervenuta in più di un'occasione recentemente anche la presidente Confindustria Marcegaglia, chiedendo che si riparta col processo di liberalizzazioni e di concorrenza anche tra le municipalizzate e nelle utilities a livello locale, e così come lo stesso governatore della Banca d'Italia, quindi non è solo un aspetto, diciamo, dello scontro politico, è un oggettivo dato per cui tutte le liberalizzazioni faticosamente, anche marginalmente messe in piedi, si sono improvvisamente arrestate, e ripeto, non se ne capisce il motivo se non quello che va sotto la voce lobby. E appunto anche sul gas, va detto che sul gas il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, ha detto: in nessun paese d'Europa ci sono tetti antitrust e non devo dire altro. In Italia ci sono 38 operatori del gas e la quota di mercato dell'ENI continua a scendere. Questa è la replica di Scaroni alle dichiarazioni del presidente antitrust Catricalà. Spostiamoci su un altro aspetto, le banche. Parole dure da parte di Catricalà anche per il mondo bancario. Ha detto: la reputazione delle banche italiane sta pagando una trasparenza spesso troppo scarsa nei confronti dei clienti, e i fattori reputazionali sembrano oggi compromessi più che in altri periodi, e parte della sfiducia dei clienti delle banche è dovuta alle prassi contrattuali troppo articolate e difficilmente comprensibili. In sostanza c'è la scarsa trasparenza. Sentiamo questo passaggio. Non c'è dubbio che gli enti creditizi siano imprese e debbano perseguire logiche di profitto per i soci e per i futuri investimenti, ma stabilità e redditività discendono anche da fattori reputazionali che oggi sembrano compromessi più che in altri periodi. Parte della sfiducia è dovuta alle prassi contrattuali spesso troppo articolate e difficilmente comprensibili da parte dei consumatori. A questo si può e si deve rimediare. Vanno fatti ulteriori passi in avanti sulla strada della trasparenza, intrapresa solo ora con una certa timidezza. Centrale è il rapporto degli istituti di credito con le piccole e medie imprese. Pur non avendo specifica competenza, riceviamo molte denunce da questo fondamentale settore produttivo e registriamo un alto grado di insoddisfazione. E anche noi, pur non avendo competenza in questa materia, riceviamo molte denunce nel nostro piccolo da parte di imprenditori. Non vi preoccupate, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, le stiamo raccogliendo tutte, perché dedicheremo un'apposita puntata con casi specifici di prestiti, casi incredibili in cui nemmeno 20.000 euro a chi ha una tripla A come garanzia vengono concesse dalla banca. Ma andiamo avanti, perché il presidente dell'ABI Faissola, l'associazione delle banche italiane, l'ABI, Corrado Faissola, ha risposto ai rilievi del presidente antitrust utilizzando una spiegazione che va abbastanza di moda nel mondo della politica. Sentiamo. Noi siamo d'accordo sul fatto che abbiamo fatto passi avanti. L'unica cosa che ci differenzia rispetto al professor Catricalà è che i passi che abbiamo fatto non sono stati timidi, ma molto, molto coraggiosi. E io credo che la reputazione delle banche in termini di trasparenza sia in graduale e direi consistente miglioramento. Noi condividiamo, siamo d'accordo anche con l'autorità preposta a dettare le regole sulla trasparenza, che poi è la Banca d'Italia, che la semplificazione. Il primo giorno che sono stato eletto presidente dell'ABI ho detto che era fondamentale passare a una maggior semplificazione della contrattualistica che disciplina i rapporti tra banca e cliente. Questo timidamente lo si sta facendo, ma la normativa non la fanno le banche. Dicevo in voga perché Faissola poi ha aggiunto: purtroppo la nostra reputazione, soprattutto per motivi mediatici, non è al massimo. Ora, evidentemente sta diventando una moda quella di dare la colpa alla stampa se c'è la crisi, se ci sono le cattive notizie, se l'economia è in recessione. Anche le banche dicono che la loro reputazione è bassa per motivi mediatici, per colpa dei giornali. E io che pensavo che fosse per colpa di certi prodotti tossici, di certi costi, di certa mancanza di trasparenza, non m'ero accorto che anche i subprime e le svalutazioni le avevano create, le avevano creati i giornali. minuti, parliamo adesso di borsa, che forse è meglio, perché quando sentiamo la relazione del presidente dell'antitrust sulle liberalizzazioni un po' di tristezza ci viene. Tanto lo sapete, lo dico a chi scrive, la linea di questo programma sulle liberalizzazioni è sempre stata molto chiara. Insomma, più concorrenza c'è, più benefici ne hanno i consumatori, punto e basta. Dopodiché ci devono essere dei settori che hanno una rilevanza nazionale, penso all'energia, ci mancherebbe, ma sulle farmacie, sugli avvocati, sulle banche, sulle assicurazioni, sui notai, sui giornalisti, insomma, non ci interessano le categorie protette. Sui tassisti ho detto semplicemente che poteva essere regolata a livello comunale, non con legge nazionale, anche perché è un caso un po' diverso. Però vediamo che gli appetiti sono sempre forti, molti di voi ci scrivono, devo dire al 349-238-6666, probabilmente perché in Parlamento ci sono tanti avvocati e non solo, tanti appartenenti agli ordini professionali, quindi sono molto sensibili al mantenimento degli ordini a danno dei consumatori. Comunque, occupiamoci di borsa e allora Fuzzi MIB meno 0,91%, pesa oggi più in Italia che altrove l'allarme lanciato ieri dalla Banca Centrale Europea su ulteriori svalutazioni bancarie, altri 280 miliardi di euro, stima la Banca Centrale Europea, potrebbero essere le perdite complessive del sistema bancario del vecchio continente, e non si capisce proprio perché soprattutto da noi perdano. Lo chiedo ad Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera Andrea. Buonasera Sebastiano. Perché soprattutto sull'Italia i bancari sono in flessione? Popolare di Milano meno 3,6, Banco Popolare meno 3, Unipol meno 2,6, Intesa meno 2,5, Unicredito meno 2,3 e poi continuo con Fondieri Assai meno 2,4%. Sì, Andrea. Non c'è un motivo specifico, certamente il settore è andato male un po' in tutta Europa, dove l'indice appunto dei bancari ha perso circa l'1%. Effettivamente le indicazioni della BCE, a cui sono seguite quelle di Banca d'Italia, che aveva ipotizzato appunto flussi di nuovi crediti problematici in incremento del circa il 70% quest'anno, e anche aveva puntato il dito in particolare sull'effetto dei crediti inesigibili sulla redditività delle banche, ha tenuto lontano gli operatori, in particolare dagli istituti di credito italiani, e come tu sottolineavi la BPM è stata quella più colpita, perdendo il 3,5% a ruota Banco Popolare, Intesa e Unicredit, e questo ha permesso al listino italiano di essere, diciamo così, il peggiore della giornata, mentre gli altri sostanzialmente hanno chiuso poco distanti dalla parità, con Parigi leggermente al di sotto, Francoforte e Londra invece in positivo, mentre Milano ha accusato una battuta d'arresto piuttosto significativa, anche perché oltre ai bancari anche qualche titolo ad alta capitalizzazione, vedi Fiat, vedi Pirelli, hanno frenato e non hanno sostenuto il listino. Sì, va detto che la chiusura è sui minimi, anche perché nel frattempo l'America è tornata alla parità, cioè quel poco che guadagnava non lo guadagna più. Parigi è scesa un meno 0,2, Francoforte, che pure era positiva dello 0,4, ha chiuso invariata, e Londra più 0,1%. Quindi giornata così, senza infamia e senza lode per le altre borse europee, un po' negativa in Italia. Tu citavi altri titoli, in effetti oltre a quelli ricordati cala Autogrill meno 3,5, Geox meno 3,5 anch'essa, e poi Luxottica meno 2,5, Italcementi meno 2,5, Impregilo meno 2,3, Fiat meno 2,1%, Lecir meno 2, Pirelli meno 1,80, Mediaset meno 1,7, Mediolanum 1,5% percentuale di calo. Chi guadagna invece? A2A più 4,25%, e qui abbiamo notizie, adesso ne parliamo. Ansaldo più 3,80%, anche qui abbiamo notizie. A2A e Ansaldo. Beh, certamente per quanto riguarda A2A, dopo diciamo così i movimenti dei giorni scorsi legati alla governance, che sembra peraltro non aver ancora esaurito il suo effetto, visto che ancora si profilano diciamo così degli scontri o comunque dei chiarimenti nell'azionariato e in particolare il Comune di Milano nei confronti dei nuovi consiglieri di sorveglianza che sono stati eletti qualche settimana fa. Diciamo che l'effetto di A2A certamente deriva da una maggiore attenzione nei confronti delle utilities in una giornata così sottotono, e c'è da dire che questo si è avuto effetti anche ad esempio su Enel. Per quanto riguarda invece la galassia Finmeccanica, diciamo che l'attenzione verso questi titoli che ha investito tanto Ansaldo STS quanto in maniera più evidente quanto Finmeccanica è arrivata da una serie di commesse. Per quanto riguarda Ansaldo, in particolare una importante commessa araba per la costruzione di una linea della metro automatica che sarà realizzata in un campus universitario a Riyadh, quindi una commessa ingente da femminile, circa... il campus più grande al mondo femminile, per un contratto importante da circa 159 milioni che ha dato la spinta al titolo oggi. E invece per quanto riguarda Finmeccanica, le buone notizie, i nuovi contratti arrivano per la joint venture con Sukhoi, la produzione del Sukhoi Superjet, e in particolare sono arrivati ordini per la vendita di 24 Superjet per un controvalore di 715 milioni di dollari. Questo ha sostenuto i titoli. Da segnalare all'interno del discorso Finmeccanica anche un rimbalzo di ST Microelectronics più 1,3% dopo che ieri il titolo era stato affondato dalle parole dell'amministratore delegato di Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini, che aveva sottolineato l'esistenza di trattative per cedere il 3,3% posseduto da Finmeccanica in ST Microelectronics, annuncio che ieri aveva fatto perdere al titolo ST oltre il 6%, quindi oggi c'è stato un leggero recupero. Allora, continua la corsa intanto di Pirelli Real Estate, già l'abbiamo spiegata ieri, oggi ha fatto un altro 22% di rialzo, invece realizzi su Camfin meno 10%, peggior titolo e miglior titolo sia Pirelli Real Estate che Camfin, Pirelli chiaramente il migliore e Camfin il peggiore, Uniland più 15%, Snia più 13% per restare sui migliori in assoluto. E invece sul fronte opposto Banca Profilo meno 8,3%, SNAI meno 6,4%. Un'ultima battuta su Fiat: perché nonostante i buoni dati vicino al 10% la quota del gruppo Fiat in Europa, il titolo perde di nuovo? Sì, effettivamente è stato un movimento meno 2 poi. Piuttosto inaspettato, anche perché le indicazioni, come tu ricordavi, sulle immatricolazioni erano positive. Diciamo che gli operatori che abbiamo sentito, che operano su questo titolo, hanno sottolineato una certa situazione di attesa appunto per capire quali saranno le prossime mosse del gruppo. Oggi lo stesso presidente Montezemolo ha sottolineato che non ci sono novità per quanto riguarda l'ipotesi Opel, né per quanto riguarda nuove operazioni in Europa. Ci sono invece grandi aspettative su Chrysler, ma il mercato, dopo diciamo un flusso di notizie insistente nel mese di maggio ha assunto un po' una posizione di attesa e effettivamente non ha saputo trarre beneficio neppure dall'indicazione oggi delle immatricolazioni, quindi si attendono novità sull'evoluzione delle alleanze e sulle strategie di Fiat. Grazie, grazie ad Andrea Fontana di Radio Corriere Sole 24 Ore. Le informazioni per chi è in viaggio, vedo che continuate a scrivere al 349-238-6666 sul tema delle liberalizzazioni, le accuse lanciate dal presidente dell'antitrust Catricalà, ve le facciamo riascoltare a questo punto dopo le 18. Mi scusi, perché non liberalizziamo anche i giornalisti? A parte il fatto che giornali ce ne sono, la concorrenza c'è. Se riferimento all'ordine dei giornalisti, che c'entra meno con la liberalizzazione delle farmacie, sono d'accordo con lei. Non mi è mai fatto impazzire l'idea di un ordine, mi interessa che ci sia un'autorità che controlli la deontologia, ma l'ordine, diciamo, come tappo d'ingresso non interessa a nessuno. Venticinquesima missione della Confindustria, dell'ICE, dell'ABI, che è iniziata sabato scorso e questa volta si svolge tra Singapore e la Malesia. 80 le imprese partecipanti, 6 gruppi bancari, 800 incontri d'affari per un'area geografica, perché non c'è solo Singapore e la Malesia intesa come Kuala Lumpur, c'è tutta un'area geografica in cui l'Italia è sì il 20° partner commerciale di Singapore, però l'interscambio commerciale è a nostro vantaggio, esportiamo quasi 2 miliardi di euro e importiamo 230 milioni, abbiamo 120 imprese nell'area di Singapore. In Malesia classifica analoga, ossia 20° esportatore, con 1 miliardo di euro esportato e importiamo invece pochissimo, 65 milioni di euro. L'inviata la nostra Raffaella Calandra, che ha realizzato in primo luogo questa scheda sui rapporti commerciali tra Italia e appunto Singapore e Malesia. L'ultima mirabilia si chiama Multiparker 750, il primo grattacielo con posto auto direttamente in salotto. Succede anche questo a Singapore, dove oltre all'ascensore per persone, un carrello porta la vettura rigorosamente di lusso a far mostra di sé in casa. Benvenuti tra le mille luci della città-stato, porta dell'Asia. Con i suoi 4 milioni e mezzo di abitanti, un reddito pro capite di $43,000 e la presenza di oltre 100 banche straniere, tra cui 3 italiane, l'ex colonia britannica ha progressivamente eroso il primato di Hong Kong come capitale finanziaria dell'area dopo Tokyo. I venti di crisi non l'hanno però risparmiata, provocando nel primo trimestre del 2009 un calo del PIL di oltre il 19%. La causa? L'alta dipendenza dalle esportazioni, che sono però diminuite ma restano positive e dirette in particolar modo ai mercati asiatici. In Europa è la Gran Bretagna la principale piazza per Singapore, che vende in Italia invece solo per lo 0,2%. Il volume di interscambio con il nostro paese nel 2008 è stato di 1,9 miliardi. Complice il rafforzamento del dollaro locale aumentano le importazioni, ma il nostro paese è solo il 20° attualmente. Ed è soprattutto per i marchi del Made in Italy, a partire dal lusso, stima l'Istituto del Commercio Estero, che si potrebbero aprire nuove fette di mercato per le imprese italiane. La prima a stabilirsi qui nel 1970 fu ST Microelectronics. Biotecnologie, nanotecnologie, farmaceutiche e finanza, i settori trainanti di quella che era considerata la California d'Asia, inserita nel 2002 nella blacklist dei paradisi fiscali. Due torri gemelle e uno skyline d'avanguardia danno il benvenuto a Kuala Lumpur, Malesia, il primo paese con centro governativo elettronico, ossia burocrazia senza carta. L'attenzione internazionale è in progressiva crescita, come il suo PIL, spinto dalle esportazioni soprattutto di elettronica e di olio di palma. Scarso l'impatto della crisi per l'elevato grado di liquidità e la limitata esposizione diretta verso gli Stati Uniti. Con l'Italia nel 2008 il volume di interscambio è stato di 1,5 miliardi circa. Questa è la scheda dei rapporti commerciali preparata dalla nostra Raffaella Calandra, che è atterrata oggi a Kuala Lumpur dopo, se ho ben capito, aver fatto la prima tappa a Singapore. Buonasera o buonanotte, Raffaella. Buonasera Sebastiano, sì, qui è sera inoltrata, siamo a Kuala Lumpur dopo aver concluso la prima parte a Singapore, come dicevi, della missione. Una prima parte che si è chiusa con un risultato importante di contatti per molte imprese italiane, ma anche con l'interesse rinnovato di due fondi sovrani di Singapore, GIC e Tumakek, a incrementare i propri investimenti già presenti in Italia in porti, infrastrutture e grande distribuzione. Attraverso la Confindustria, attraverso anche il Ministero delle Attività Produttive, rappresentato qui dal Vice Ministro Adolfo Urso, l'Italia punta anche ad entrare con Singapore in lavori in Cina, nei lavori di Eco City a Taijin. Per questo anche il Vicepresidente di Confindustria Paolo Zegna, con chi ha le deleghe all'internazionalizzazione, ha ricordato come per le nostre imprese Singapore rappresenti soprattutto un ponte anche verso la Cina. Sentiamolo. Può sembrare un'area più limitata se uno fa il conteggio tra Singapore e Malesia. Non sono così tanti gli abitanti, ma è un'area che soprattutto ha in Singapore un perno e si estende in una superficie la cui popolazione poi può essere addirittura di 600 milioni di abitanti. Non è tanto il mercato di per sé stesso l'obiettivo finale, ma le aziende di Singapore possono diventare in qualche modo partner di quelle italiane per permettere loro poi di espandersi nell'area che, ripeto, tocca centinaia di milioni di possibili consumatori e quindi indubbiamente allarga i confini. Quali potrebbero essere i settori di maggiore interesse anche per le aziende italiane? Dell'elettronica, delle nanotecnologie, della meccanica di precisione, oltre a quelli tradizionali. Ecco, ma direi che forse i primi sono quelli che hanno avuto il maggior numero di adesioni e sui quali credo che si punterà in modo particolare. È un primo contatto che credo che seguirà poi da altre azioni che dovremmo mettere in atto, proprio perché è comunque un'area che deve essere ancora scoperta più a fondo da parte delle aziende italiane. Le stiamo portando proprio con l'obiettivo che dei lanci, prima in Vietnam, adesso in Malesia e in Singapore, possono essere da esempio per poi continuare a coltivare i rapporti e permettere quindi di capire che l'Asia non è solo un potenziale concorrente, ma è indubbiamente un enorme bacino di potenziali clienti. Qui ovviamente le imprese italiane sono arrivate prima a Singapore, ora in Malesia, anche per trovare una strada per uscire più velocemente dalla crisi, qui dove secondo i primi segnalatori, i primi osservatori, i primi segnali di ripresa ci sono già. E per questo anche le banche sono vicine alle imprese che, nonostante questo momento così difficile, continuano comunque ad investire verso l'esterno, e l'ABI ha stabilito, ha stanziato 2,3 miliardi a favore delle imprese. Ora siamo in Malesia e da domani cominceranno una serie di incontri con il Ministero del Commercio locale, con altri partner, potenziali partner commerciali di Kuala Lumpur, soprattutto nel settore della meccanica di precisione, della nanotecnologia, ma anche di una imprenditoria sempre più attenta e di un investimento sempre più attenti all'ambiente. Sebastiano. Raffaella, allora buonanotte a questo punto e buon proseguimento della missione. Ci risentiremo nei prossimi giorni. Importante sapere che appunto le banche italiane hanno stanziato 2,3 miliardi per finanziare l'export e gli investimenti a Singapore, il che significa che sono vicine alle imprese, almeno a Singapore. Poi sul territorio è un altro ragionamento, la battuta non poteva non farla. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, prima di arrivare all'indicatore internazionale sulla ripresa del commercio, alla luce anche di quanto dichiarato oggi da Berlino dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che ha detto, l'avete appena sentito dal nostro GR, attenzione, si mettono in campo delle strategie per uscire dalla crisi. Nel caso specifico l'invito è a contenere, ridurre le politiche espansive, come si chiamano, ossia quelle che fanno crescere il deficit, la spesa pubblica, da un lato, e anche attenzione poi per quello che riguarda le banche centrali a non tenere il costo del denaro troppo basso, troppo a lungo, perché si rischia una bolla. Dicevo, prima di arrivare alla situazione del commercio mondiale, vorrei farvi ascoltare di nuovo, perché molti di voi ci hanno chiesto al 349-238-6666, l'accusa, a mio avviso più forte, che il presidente dell'antitrust ha lanciato oggi nei confronti di un'attività, diciamo, legislativa che punterebbe a smantellare tutte le liberalizzazioni esistenti, cioè a reintrodurre vecchi vincoli a danno dei consumatori, a protezione delle categorie. Devo dire che su questo già era intervenuta la Presidente di Confindustria Marcegaglia, il Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, e sentiamo quindi Catricalà parlare oggi nella relazione annuale di stillicidio di leggi contro i consumatori, facendo nomi e cognomi. In Parlamento va scoraggiato lo stillicidio di iniziative volte a restaurare gli equilibri del passato a detrimento dei consumatori. Nella distribuzione farmaceutica l'approvazione di riforme che riportino indietro le lancette e l'orologio ripristinerebbe di fatto il monopolio delle farmacie tradizionali, con la conseguente fuoriuscita dei nuovi operatori. In 3 anni sono stati aperti quasi 3.000 corner e parafarmacie. La loro quota di mercato è vicina al 6% dei farmaci di automedicazione. Lo sconto praticato ha margini tra il 3 e il 22%. I farmacisti nuovi occupati sono circa 5.000. Nel settore assicurativo si profila l'abrogazione della facoltà di decesso annuale dai contratti di durata, la riduzione delle modalità della mobilità della clientela contribuirà a ingessare un mercato in cui la dinamica competitiva è già molto attenuata. Per la distribuzione del gas, questa autorità più volte si è espressa a favore del mantenimento di un tetto antitrust, indispensabile per favorire una concorrenza effettiva nel settore. Si è altresì sottolineato che dovrebbe trattarsi una misura flessibile che tenga conto delle nuove quantità attese, delle trasformazioni del mercato e degli andamenti della domanda. L'indagine sullo stoccaggio del gas ha evidenziato la necessità di eliminare le barriere amministrative che impediscono lo sviluppo di nuova capacità. Il processo di apertura dei mercati deve essere riavviato. Nomi e cognomi, quindi, le farmacie, o meglio la legge contro le parafarmacie, nonostante i risparmi che ha portato. Lo dico perché in un periodo di crisi, obiettivamente, di difficoltà anche dei consumi, non si capisce le esigenze. Soprattutto, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, sarebbe forse più credibile, più trasparente una posizione dell'ordine dei farmacisti che contestasse la vendita dei farmaci da banco e contestasse questi risparmi che invece fotografa l'antitrust e ci spiegasse i motivi. Non fare leggi, diciamo così, nel silenzio, nottetempo, per ripristinare le vecchie regole. Questo vale anche per il mondo assicurativo, visto che fra poco vi sarà l'assemblea dell'ANIA. Che senso ha andare a reintrodurre vincoli sulla possibilità di recesso? E lo abbiamo già detto per l'ABI, così oggi ci facciamo un po' di nemici. Alle banche italiane, più di un imprenditore, oltre che di un cliente, ha ricordato che è stato, e lo ha fatto anche il governatore Mario Draghi, che di fatto la commissione sul massimo scoperto, con meccanismi che adesso non vi sto a raccontare, rientra dalla finestra dopo essere uscita formalmente dalla porta. Per non parlare poi dell'energia, del gas, delle municipalizzate che fanno concorrenza alle aziende private, insomma. Non si capisce perché non si approfitti di questa difficoltà economica almeno per andare avanti sulla concorrenza. La concorrenza fa bene e appunto chi crede nel mercato dovrebbe credere proprio nella maggiore concorrenza possibile. Vabbè, va bene, si fa per dire. Andiamo avanti invece, cerchiamo di capire qual è la temperatura dell'economia a livello mondiale, ma in primo luogo a livello italiano, perché dei segnali di ripresa oggi ha parlato il presidente della Camera Gianfranco Fini, intervenendo alla presentazione della relazione annuale dell'antitrust. Fini ha detto in sostanza: i dati che che stanno arrivando sono confortanti, ma attenzione, sono molto pericolosi i facili ottimismi. Recenti statistiche e previsioni indicano l'Italia tra i paesi meno duramente colpiti dallo tsunami finanziario e dalle sue ricadute sull'economia reale. Un minor grado di internazionalizzazione del nostro sistema bancario, un'elevata propensione media al risparmio e uno sviluppo relativamente contenuto del credito al consumo hanno certamente contribuito, insieme ad altri fattori, a limitare i danni e evitare il rischio e il ricorso a misure emergenziali di intervento pubblico analoghe per tipologia e dimensione a quelle che molti paesi hanno posto in essere per scongiurare gli esiti disastrosi di una drammatica crisi di liquidità. È noto che l'OCSE ci colloca, insieme a Francia e Cina, tra i paesi che per primi potrebbero tornare a crescere, e dati incoraggianti emergono anche dall'ultimo rapporto Istat che segnala come nei primi mesi del 2009 circa un terzo delle imprese italiane, prevalentemente di piccola e media dimensione, abbia addirittura aumentato le proprie esportazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta indubbiamente, se confermati, di segnali confortanti, ma indulgere a facili ottimismi sarebbe incauto e pericoloso. Lo scenario complessivo rimane infatti condizionato da forti elementi di incertezza, sia sul piano delle variabili esterne, collegate alle prospettive di ripresa della domanda internazionale, sia su quello dei fattori e dei vincoli interni che influenzano le potenzialità di sviluppo del nostro sistema economico. Un debito pubblico tra i più elevati al mondo, una forte dipendenza energetica, una dotazione infrastrutturale complessivamente deficitaria, incidono pesantemente sul costo dei fattori produttivi e sulla competitività delle nostre imprese. Così il presidente della Camera Gianfranco Fini. Allora ascoltiamo le informazioni per chi è in viaggio e poi vediamo di capire a livello globale di quale intensità di ripresa o comunque di segnali di ripresa stiamo parlando. 349-238-6666 per i vostri sms. Molti scrivono che bisognava liberalizzare i giornalisti e le frequenze. Io ricordo che le frequenze radio si comprano sul mercato, basta avere i soldi, i giornali uno li può stampare. Dopodiché l'importante è vendere le copie e trovare la pubblicità, non è stamparli. I giornali vale anche per la radio. Minuti. Dunque, mentre tutti, non solo il Presidente della Camera, la Banca Centrale Europea, la Banca Europea degli Investimenti, si interrogano sulla qualità di questa non ripresa, perché ancora ripresa non c'è, ma di questa fine della parte peggiore della crisi. Ieri infatti il direttore generale del Fondo Monetario, Dominique Strauss-Kahn, ha detto: attenzione, il peggio della crisi non è ancora passato. Oggi invece il governatore Draghi dice: prepariamoci alle misure d'uscita dalla crisi. Insomma, le analisi economiche non sono nemmeno in questo caso concordanti e univoche. Noi vorremmo oggi occuparci di un indice che, nella sua grezzezza, lo dico con massimo rispetto, fotografa abbastanza bene il commercio mondiale. Si chiama Baltic Index, fu creato dagli inglesi all'apice del loro impero nella City a metà del Settecento e in sostanza misurava allora il costo per trasportare il caffè, che era la merce principale. Adesso cosa succede? Ogni mattina, se non ricordo male, un certo numero, qualche decina di operatori si sveglia, fa un insieme di telefonate ogni mattina dalla City a 26 e cerca di capire per 26 rotte commerciali, le principali al mondo, di cargo, di navi stiamo parlando, quanto costa trasportare per esempio 100.000 tonnellate di ferro dal Brasile alla Cina, non so, 50.000 tonnellate di soia da San Francisco a Hong Kong. La cosa interessante, e concludo, è che questo indice non tiene in considerazione il petrolio né i prodotti finiti, per cui si parla di prodotti semilavorati. Ecco perché viene considerato un indice anticipatore, precursore di quella che sarà poi l'attività, perché riguarda gli ordinativi di prodotti che servono poi, una volta lavorati, a produrre un bene finale, e ti dice il costo di quanto se devi trasportare questa roba, quanto ti costa da una parte all'altra, detto in maniera un po' grezza. Era crollato nel mese di dicembre a 663 punti contro, pensate, gli 11.000 punti di maggio, mai così basso nella sua storia. Allora ne parliamo con il dottor Andrea Esposti, che fa anche consulente per le piccole imprese Unicredit Bank. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera ai radioascoltatori. Allora, spero che la mia ricostruzione del Baltic Index non sia stata troppo prosaica. È chiaro che nessuno noleggia un cargo se non ha merci da spedire, e soprattutto se il traffico mondiale di merci crolla, crolla anche il prezzo per trasportarlo, perché insomma si naviga sempre meno. L'offerta di navi cargo nel mondo è assolutamente inelastica, mentre invece la domanda soprattutto di ciò che viene trasportato sulle navi cargo si trasla immediatamente sul prezzo dei noli marittimi. Il prezzo dei noli marittimi è fondamentale per due motivi: ci dice dove sta andando la domanda di materie prime, e in parte anticipa, come ha detto giustamente, il ciclo economico. Dove sta andando la domanda di materie prime? In sei mesi l'indice ha perso il 94%, e questo è un dato grezzo su cui invito a riflettere. È rimbalzato effettivamente in maniera significativa nella prima parte del 2009, salvo poi correggere recentemente. Allora andiamo con ordine. Valeva 11.000 punti questo Baltic Index nel maggio del 2008, era crollato del 94% appunto a 815 punti a dicembre, anzi a 660 punti a dicembre. A che livello è ritornato? Così capiamo come si sta rimuovendo il traffico cargo a livello mondiale, quindi le merci a livello mondiale. Non è significativamente differente da questi livelli, il che significa dopo un rimbalzo di circa il 250% ha piano piano perso terreno. Ha perso terreno soprattutto nell'ultimo mese. Adesso ovviamente i radioascoltatori non hanno questa possibilità, però tutti su internet possono andare a disegnarselo, a guardarlo. Se lo guardassero noterebbero una significativa correlazione tra l'andamento del prezzo delle materie prime e a volte anche dell'andamento borsistico e le correzioni dell'indice. L'ultima correzione importante è stata intorno al 10 di giugno. Qualche giorno dopo la borsa ha reagito decisamente male. Sì, abbiamo visto questa mattina in Asia perdere tutti i titoli legati per esempio al rame e minerali e all'energia in generale. Quindi, se ho ben capito, da 600 punti è salito a 4.000 punti intorno a giugno, ho capito bene? Sì, salito, da lì poi... e poi per poi perderli progressivamente. Ecco, l'altra cosa che è interessante, è tornato a 600 punti, no? Sì, no, adesso sono purtroppo in viaggio, non ho il dato puntuale, ma non è significativamente diverso dai livelli che aveva raggiunto. Ecco, per quello che riguarda invece i movimenti, perché con questo indice del trasporto via cargo, di quanto costa affittare e noleggiare un cargo, si capisce anche dove si dirigono i flussi di merce, appunto vedere quanto è aumentato o crollato il prezzo per trasportare ferro dal Brasile alla Cina è diverso che vedere... il trasporto della soia da Hong Kong a San Francisco. Avete negli ultime settimane anche notato un'intensificazione delle rotte commerciali, quindi dei prezzi verso la Cina, verso l'Asia, oppure tutto più o meno omogeneo? Allora, i driver fondamentali, e qui... Non mi dica driver, perché... Allora, non mi dica driver. Le spinte fondamentali alle variazioni di quest'indice. E apro una parentesi importante, perché al di sotto di questa risposta vi stanno forse alcuni elementi per capire come uscire eventualmente da determinate situazioni economiche di grande difficoltà a livello mondiale. Sono state spostate dagli ordinativi derivanti dalla Cina. In particolar modo, tutte le volte che questi ordinativi salgono in maniera consistente, il prezzo dei noli marittimi e in generale il prezzo delle materie prime reagisce, non in maniera simmetrica ovviamente, non si tratta di un indice con una scientificità assoluta, ma nella sua grezzezza ci dà l'ordine e la dimensione di questi movimenti. Senza un apporto significativo dei paesi asiatici, in particolar modo della Cina, non si spostano non solo le merci, ma non si spostano significativamente i prezzi delle materie prime. E siccome le materie prime sono tutto quello che ci circonda e che viene trasformato, una piccola parte della risposta a qual è la chiave di volta esiste. E soprattutto il fatto che comunque, nonostante il rimbalzo, l'indice delle materie prime secche, il dry index, non sia tornato neanche lontanamente vicino a quelli che erano i suoi livelli massimi del maggio del 2008, ci dice quanto siamo lontani ancora da una ripresa. Per cui, se ho ben capito, se c'è stata una ripresa del costo, di quanto costa noleggiare un cargo per trasportare merce semilavorata, che questo è il dry Baltic Index, se c'è stata una ripresa è dovuta semplicemente o quasi totalmente alla domanda cinese, per cui a una ripresa dell'economia cinese, ma i livelli che di recupero sono stati, siamo ancora a un terzo dei livelli rispetto al maggio 2008, è più o meno così la situazione? Ancora tanto, manca assolutamente ancora tanto a tornare a questi livelli e quindi un'altra notizia anticipatrice una parte diciamo del grande problema su cui si stanno scrivendo fiumi di parole è che evidentemente una timida ripresa non può prescindere dai paesi asiatici, in particolare dalla Cina. E questi movimenti non sono prodotti né dal continente nordamericano né da quello europeo. Tanto per fare un esempio, nella tratta tra l'Europa e la Cina, trasportare un container costava fino a 6 mesi fa $2,800, oggi costa meno di $600, grosso modo. Quindi questo è un'altra parte della verità. Non è possibile prescindere, purtroppo, ormai, o a ragione, a seconda se lo vogliamo vedere come una minaccia o come un'opportunità, dalla domanda proveniente dal subcontinente asiatico. E forzando il suo ragionamento e lo scenario che lei vede, se arriverà un po' di ripresa, arriverà dalla Cina. Questo lo dico perché per anni fa abbiamo discusso per intere puntate se fosse giusto o no mettere i dazi alla Cina, bloccare i prodotti cinesi, la minaccia cinese. Sta a vedere che se va avanti così toccherà incrociare le dita sperando che dalla Cina arrivi un po' di ripresa, perlomeno sul fronte manifatturiero. Grazie, perché era interessante, visto che spesso dite ma troppi economisti. Ecco, allora abbiamo parlato del costo del noleggio di un cargo e su questo non ci sono pochi dubbi. Finché il costo è a un terzo, a un quarto, a un quinto rispetto a un anno fa, che la situazione è ancora messa molto molto male per quello che riguarda l'economia internazionale. Grazie dottore Sposti. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata a voi in ascolto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.